faccio vedere dov'è il nostro pezzo di mondo. Portati dietro un sorriso, un sospiro, li userai. Vieni qua che potrai galleggiare a due dita soltanto dal fondo. Ma se ti mancherà l'aria ti affitto la. Che prima e dopo il sogno c'è la vita da vivere, vivere all'Ambrosco e poco e via sopravvivere, andata e ritorno classe 3, ma almeno è possibile, possibile. Un bicchiere di vino, un vassoio di mais già scoppiato. Ballaci su questa terra, faremo un po' piovere. Vieni qua che c'è questo drive-in che ha per schermo un gran cielo gonfiato. Macchina no, c'è un bel pezzo d'asfalto da correre. Perché prima e dopo il sogno c'è la vita da vivere, vivere all'Ambrosco e popcorn e via sopravvivere, andate ritorno classe 3, ma almeno è possibile, possibile che posto c'è in me. Posto c'è me, dico posto c'è me, posto c'è me, posto c'è me, posto c'è me. Tanto torni.